Friuli nel mondo, sagra del vino a Casarsa, 21esima trasmissione dedicata agli emigrati. Casa, a Casarsa della Delizia, i Borgna, artigiani della fisarmonica, salutano così l'imminenza della sagra del vino friulano. La settima, in ordine di tempo, indetta, sotto gli auspici dell'ente provinciale per il turismo di Udine, dalla cantina sociale Destra Tagliamento, che s'aderge poco lontano con i suoi imponenti padiglioni in continuo sviluppo. Sono motivi di villotte, tratti da agili mani, sulle tastiere dello strumento costruito per commissione di un emigrato, a conforto della propria e della nostalgia dei friulani che insieme con lui lavorano in Francia. Destino immutato, immutabile di nostra gente. Anche Borgna figlio varcherà fra poco l'Atlantico per tentare la fortuna sulle rive dell'Ontario, fabbricante di fisarmoniche come i genitori, come il nonno paterno. Gli stessi motivi del Friuli natio rallegreranno forse laggiù altri nostri emigrati, motivi evocatori di sagre paesane, come questa di Casarsa, esemplare per orchestrazione, che si svolge intorno alla cantina, una istituzione cooperativistica forte dei suoi 800 viticoltori aderenti, capace di 50.000 ettolitri, in serbo nelle grandi vasche e nei giganteschi bottoni. Nel fervore pieno delle opere si direbbe un sonante opificio. Di raspatrici e pigiatrici, torchi e pompe fondono e confondono le loro voci metalliche. Dicono il frutto della solidarietà contadina, confermano la bellezza del motto che questa sublima. Uno per tutti, tutti per uno. Fondata nel 1931 con 120 soci e con la capienza di 8.000 ettolitri, la cantina è sempre cresciuta, superando la furia della guerra, albero frondoso dal tronco possente. Uve le giungono dal Golfo di Trieste, dalla Laguna Veneta, dalla fertile pianura del Tagliamento. I suoi vini tipici da pasto hanno nome Tokai Friulano, Pinot Grigio, Merlot, Cabernet, accompagnatori i primi due degli antipasti e del pesce, delle carni, specialmente degli arrosti, i secondi. Vini limpidi, sapidi, vellutati, dall'inconfondibile profumo, i quali sembran dire prendeteci, siamo vostri. Uno di essi raggiunge il remoto Giappone, richiesto da quelle missioni cattoliche per il servizio del culto, lodato niente meno che dallo stesso imperatore, il quale lo accostò alle labbra felice. Lo vogliono bere e ribere, consiglia la villotta che apre la sagra casarsese. È vino della delizia, vendemmiato nella sua stagione. Un altro canto, dalla complessa armonizzazione, gli ha dedicato un maestro cieco, sensibile però al suo abboccato. Eccolo nell'interpretazione del coro di Casarsa. Si sinta dici che a Casarsa son tanciusio, son tanciusio, ma non mangia, polenta nencia, e sempre al cor un plom di vin. Sinte, sinte, canta, al cor un plom di vin. Di vin, allora su, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di vin, di v Se non che, nei tre giorni della sagra, il paese è invaso da torrenti di musiche e di canti. Sullo sfondo della folla che s'assiepa alle mostre delle macchine e degli attrezzi agricoli, dei bovini di pregiata razza friulana, un contorno ormai tradizionale ai chioschi assediati da bocche sitibonde.